A very good evening to you and welcome to Vibration, the best in rhythm and blues, coming at you here from 2 to 4. My name is Fergal Kavanagh, and with Tetsuya, we'll be here playing, as I said, the best in rhythm and blues on Radio Tour, the moving station. Ok, allora eccoci qua di nuovo, un'altra settimana iniziata e fa freddo, spero che questa musica vi farà un po' più caldo. A me, con me, sto bene adesso perché sto sentendo la bella intro, il bello introduction of a great piece. This is dedicated to Tetsuya because in the studio it's just the two of us. Please take it away, Grover Washington Jr. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Oh, senti quella bella sassofono. That's Grover Washington Jr. with just the two of us. Maybe it's just him and his saxophone that he's talking about. Wonderful, wonderful music. Oh, fa freddo a Napoli, ragazzi, eh? It's bloody cold here, I tell ya. Meno male qua nel studio si sta un po' più caldo, si scioglie, infatti sto proprio sudando qua, però non possiamo lamentare più di tanto. Siamo a Napoli, dove non è iniziato a fare freddo fino a, non so, 3 settimane fa, cioè siamo quasi a dicembre ormai. Ma se guardi in Irlanda, anche in agosto, in August, it's very cold, quindi la gente mi dicono, ma che fai a lamentare? Why are you complaining? In Ireland you should be used to it, ne dovresti essere abituato. Ma io dico, ma quando mai? Quando mai? Io sono a Napoli da 4 anni e devo dire, sono stato viziato da questo tempo bellissimo. Non sono più abituato. Infatti una cosa sorprendente che ai stranieri, a quelli in Irlanda le fanno sorprendere tanto, è che in Grecia, io ho vissuto in Grecia ho sentito una fredda pazzesco. Non sono mai stato così freddo che sono stato in Grecia, quindi in Irlanda non è così, non fa così freddo. Chissà perché, vabbè, dicono è perché da Messico arriva questo warm Gulf Stream che ci fa sciogliere un po'. Infatti se tu vai nel porto di Cork, la mia città al sud, magari vedi queste papere che arrivano col sombrero sopra, cantando con tequila sotto l'alle, queste vermi del tequila abituato che arrivano in Irlanda. Per questo siamo un popolo caldo, magari fa freddo, sì, però un popolo caldo e la fredda non è come a Napoli. Dai, facciamo scaldarci un'altra volta con la bella voce di questa signora Erika Badu. Voglio che voi sentite questo, si chiama On and On. That's Erika Badu. I must say, I do love her voice. I do love her voice. I wasn't very familiar with her music before, but that's a great album. That is wonderful. Get a hold of it if you can. Allora, io ultimamente, questo fine settimana, sono stato a Roma. Ho cenato con un collega inglese. Abbiamo fatto un po' di chiacchiere così. Abbiamo parlato di come è fatto il mondo. E mi ha raccontato una storia molto strana. Allora, praticamente è un problema che magari voi napoletani potete pure capire bene. In Islandia è deviato lasciare i vostri cani fare i suoi bisogni per strada. Come chiamano in inglese, il dog poo, diciamo in modo corretto, a polite way of saying it. Non voglio dire la parola qua, però diciamo il pupù dai cani non si può fare in Islanda. Perché? Perché? Perché lì c'è proprio il gelo, it freezes over. Allora il cane fa i suoi bisogni, arriva la neve, arriva il ghiaccio e lo copre, poi arriva primavera, scioglie tutto e c'è un puzzo incredibile, incredibile. Quindi il governo islandese hanno deciso, qualunque che c'ha il cane, se la lascia fare quelle cose su per strada, sarà multato altissimo, a really really heavy fine. Qua a Napoli magari se facessero le stesse cose. Io una volta vivevo sulla Corso Vittorio Emanuele e ho notato, sull'un lato della strada, dove ci sono tutti i negozi, è pulitissimo, si sta bene. Sull'altro lato della strada, dove non ci sono i negozi, c'è la bella panorama, quindi scegli di camminare lì, perché vuoi vedere, vuoi evitare quelli che stanno facendo il shopping. Però nessuno pulisce la strada, non gli interessa. È un guai, bisogna invece di guardare la bella panorama di Napoli, Vesuvio, il Golfo, bisogna guardare per terra. You gotta look down on the ground, make sure that you're not going to step in any doggy poo. It's not a pleasant experience, ragazzi. Non lo so se è mai successo a voi. Voglio raccontarvi una storia abbastanza divertente. Io e un irlandese eravamo qua a casa mia. Siamo andati in giardinetto così. Abbiamo visto un albero delle aranci che ci interessava molto, perché orange trees, we don't have orange trees in Ireland. And we decided, mettiamoci su, pigliamo un'arancia e vediamo com'è. Quindi lui mi ha messo sopra. I stood on his feet and his hands with my feet, and purtroppo avevo già messo i piedi da qualche parte, senza rendermi conto che non volevo fare male a questo amico. I risultati potete immaginare, è così, quindi proviamo ragazzi a portare i cani in un posto fisso e non lasciare questo dog poo dappertutto, proprio orribile. Chi è? Chi è questo? No. Beverly? Ah, Beverly, ah, she's over there! What's up, it's Funk Doc, baby? Remember me? Yeah, she has a song. Yeah, yeah. Right. Yeah, nah. Beverly Knight made it back. There goes Beverly Knight. She made it back just in time for her mate there, who came into the studio looking for her. Cool, he's leaving as well. Nice people. They brought me a cup of coffee and I'm feeling a bit better now, a bit more awake. Stavo leggendo il giornale inglese, quello londinese, The Independent, mercoledì scorso, e c'era un articolo che parlava dei cinghiali selvatici che ormai hanno preso Berlino, an invasion of wild boar in Berlin, e cioè creano un grande problema, vanno a rovinare tutto sulle tombe delle persone, vanno in giardinetto a distruggere tutto, ed è un vero problema. Magari, allora, vedo, è un problema, sì, non lo vorrei nemmeno a Napoli, però segna una cosa, segna il rientro agli animali selvatici nella città. Questa è una cosa bella secondo me, che una volta in Irlanda di sicuro, immagino anche qua a Napoli, c'erano i volpi, the foxes who came in the evening, and erano belli, magari il tuo bambino vedeva un volpe in fondo del giardino, ero pure in educazione. Questo purtroppo non ci sta più, però mi segno bene se torno i cinghiali, che stanno tornando gli animali selvatici nella città. Mica è male questa cosa. Sono stato a Roma, come ho detto prima, e ho visto nel cielo tanti uccelli insieme che sembravano proprio a cloud, nuvole di birds, insieme facendo balli, era proprio una cosa sfiziosa, ragazzi. Devo dire che proviamo a fare la natura vivere insieme, anche in città, perché siamo tutti esseri umani, esseri animali, se si può dire così. Siamo esseri e viviamoci questo mondo insieme. Right, now let's move on with a song called Moving On. A lovely lady, another lovely lady, lots of lovely ladies here. This is the fine voice of Cici Peniston, and if you listen closely, you might just get the emozione of a wonderful track from her album. It's Moving On! Holding on. Yeah, CC Peniston, If It Should Rain, se dovesse piovere. Speriamo di no, la fredda la sopporto, però la pioggia, the rain is something horrible. Almeno con freddo si può girare il motorino, però in the rain, no way, man. Anyway, it's time to go to bed for me, it's probably time for you to get up and go to work. So, please join me again tomorrow, because we're having fun. Ci siamo divertiti stasera e vogliamo continuare questo divertimento domani sera, stesso posto, stesso orario. Mi raccomando, Radio Tour, the moving station. This is, I've forgotten who this is, but Funky Company with Rescue Me. Take it away, this beautiful lady, take me away.